Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Maurizio Zaccaro per parlare del suo film Nur. Pietro Bartolo, storie di vita del medico di Lampedusa, al cinema dal 10 al 12 agosto 2020 e poi on demand. Maurizio, ben trovato. Grazie, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Poi al cinema, oggi è diventato un modo di dire, nelle arene, diciamo nelle arene estive dove sarà proiettato. Esatto. Perché purtroppo il cinema è ancora un'illusione. Vabbè, comunque andiamo avanti. Come lo presenteresti a chi ci ascolta? È un film molto particolare, tratto dal libro di Pietro Bartolo, Lacrime di sale, pubblicato da Mondadori. Io ho letto il libro, non subito uscito, cioè nel 2017, poi dopo ho chiesto alla produttrice Donatella Palermo cosa ne pensava di poter fare un adattamento da questo, che poi non è un romanzo ma una sorta di diario. Lei, che aveva già prodotto Fuoco a Mare, è d'accordo appunto con Pietro, siamo andati a fare i primi sopralluoghi, abbiamo incontrato non solo Pietro e la sua famiglia ma anche tutti gli abitanti di Lampedusa, e ti devo dire che è stata un'accoglienza splendida all'epoca quando noi siamo andati. Adesso mi dispiace un po' sapere, leggere quello che si vede sui giornali, che sta succedendo esattamente il contrario, cioè mentre noi usciamo con il film due anni dopo a Lampedusa la gente reagisce ormai in un modo diverso e di conseguenza la stessa vita di Bartolo è poi cambiata. Quindi vedi come i progetti variano nel tempo, ma l'essenza poi rimane sempre la stessa. Cioè, perché sta cambiando? Perché quello che noi raccontiamo, gli sbarchi, non gli sbarchi, i minori che arrivano da soli a Lampedusa, continuano ininterrottamente come se nulla fosse. Com'era nata la spinta a tradurre in immagini quel testo? Non lo so, io già nel 94 avevo fatto un film che si intitolava L'articolo 2, dove raccontavo la storia di un algerino che viveva a Milano, faceva l'operaio e tentava di fare il ricongiungimento familiare con il resto della famiglia che era formato da un'altra moglie, e per quello veniva accusato di bigamia. Come vedi, sono tematiche che a me sono molto care e nelle quali vedo che c'è una possibilità di avere una narrazione perlomeno sulla realtà, e non c'è nulla di più temibile da parte del potere della realtà stessa. E ti spiego il motivo, cioè il potere teme la realtà perché tu, per raccontare la realtà, hai bisogno della libertà d'espressione. Allora, se uno fa una lista dei paesi del mondo dove la libertà d'espressione è garantita, vede che l'Italia non sta messa molto bene. Cioè, questo è un po' il concetto che mi spinge a fare un po' questi lavori, no? Fisso Enzo Tortora che ho fatto e tanti altri lavori del genere, insomma. Cosa ti ha più impressionato del personaggio? Quando uno come Pietro Bartolo, quello vero, non parlo di Castellitto che lo fa nel film, ma quando Pietro Bartolo ti racconta che nell'arco di quasi 25 anni di lavoro al poliambulatorio di Lampedusa ha soccorso 350.000 esseri umani, ecco, questa è una cifra che fa raccapolare la pelle e fa pensare molto. Cioè, una persona sola, che non è un eroe, ma semplicemente un medico di un poliambulatorio, sul Molo Favaloro, che è una striscia di cemento lunga più o meno 200 metri, accoglie 350.000 esseri umani, li cura, li sorregge, li ospita come può nei locali del poliambulatorio e li restituisce alla vita. Quindi questa è la chiave fondamentale per capire chi è Pietro Bartolo e il lavoro che fa. Ecco, rispetto al testo, su cosa hai voluto centrare tu il racconto? Per chi ha letto il libro, probabilmente molte persone l'avranno letto, perché è stato anche successo editoriale. Il libro è fatto un po' a scacchiera, racconta la storia della sua vita, della sua infanzia, ma racconta soprattutto anche di questi vari personaggi che lui incontra quando arrivano a Lampedusa. E fra queste persone noi abbiamo scelto proprio la figura forse la più emblematica. C'è una bambina siriana di 10 anni che arriva a Lampedusa senza padre né madre. E di conseguenza lui si sostituisce un po' i genitori e cerca di fargli tutto poi per ritrovare la madre. Dove è finita la madre? Dove è finito il padre di questa bambina? Quindi il film ha una drammaturgia un po', non dico da giallo, perché tu devi capire dove sono finite queste persone, però poi alla fine fortunatamente lui ci riesce e quindi riconsegna la figlia alla madre vera. Ecco, diciamo che è un caso su tanti che succedono così a Lampedusa, per non parlare poi di chi invece purtroppo non ce la fa. E allora finisce dentro un sacco e lui deve chiudere il sacco con la zippa e lì finisce la storia di un essere umano. Questa è un po' la spinta che è stata la chiave propulsiva per andare avanti il lavoro, per stare a Lampedusa, perché il film è stato girato integralmente a Lampedusa, per stare con Pietro tutti quei mesi per vederlo al lavoro e per poi sostituirlo con Castellitto, che lo interpreta magnificamente, devo dire, perché c'era da fare una scelta, penso per dire la battuta l'ho detta veramente alla produttrice della Palermo. Quando mi chiese, tu chi pensi che possa fare Pietro Bartolo nel film, cioè quale attore potrebbe essere? E io quel giorno mi ricordo che così, dicevo proprio una battuta, risposi, ma due sono le persone che vedo io in questo ruolo. O lo fa Pietro e lo fa lui, per l'esperienza che ha, non è un attore ma lo potrebbe fare, o lo fa un attore che non fa l'attore facendo Pietro Bartolo ma che lo evoca. E di conseguenza uno dei migliori attori italiani che lavora su un percorso del genere è appunto Sergio Castellitto, che più che rappresentare dei personaggi storici li evoca senza cercare la vera somiglianza fisica, senza cercare la maschera, capisci? Evoca più che sono i suoi sentimenti più profondi. Nella permanenza a Lampedusa che atmosfera hai respirato? Purtroppo sai, si fanno le cose a Lampedusa, succedono in modo diverso, cioè è un bellissimo posto perché è pieno di turisti di estate, soprattutto in questa stagione, è chiaro che il lago di Lampedusa attira i turisti come le mosche, ma al tempo stesso è, come ti posso dire, una sorta di scoglio buttato in mezzo al Mediterraneo, tanto che Pietro stesso lo chiama un salvagente buttato in mezzo al Mediterraneo, e di conseguenza anche questo salvagente è un po', essendo una frontiera, diventa una rocca quasi inespugnabile, perché è una rocca militare, ci sono carabinieri, polizia, guardie di finanza, la guardia costiera, c'è di tutto e di più per quanto riguarda le forze dell'ordine. E quindi ti senti un po' in una caserma, va a bere al bar, un caffè, sei lì insieme alla maggior parte che ci sono militari, ai quali per fortuna ci hanno dato una mano a girare questo film, ma non soprattutto ringraziati anche il personale della Guardia Costiera, che senza il loro aiuto il mare non ci saremmo potuti stare. Però non è facile girare con queste storie di mare su un'isola. Nur, Pietro Bartolo, storie di vita del medico di Lampedusa, in sala e nelle arene dal 10 al 12 agosto 2020 e poi on demand. Un saluto e un ringraziamento al regista Maurizio Zaccaro. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, ciao, ciao, grazie mille, ciao. Giulio Vita, direttore dell'ottava edizione della Guarimba Film Festival, per quanto riguarda i cortometraggi ad Amantea dal 7 al 12 agosto 2020. Ben trovato. Ciao, ciao, grazie dell'ospitalità, ciao a tutti. Raccontiamo un po' l'origine di questo festival. Beh, la Guarimba inizia nel 2013 quando io sono cresciuto in Venezuela. E ho deciso di tornare ad Amantea, nel paese dei miei nonni, per creare questo festival insieme a Sara Fratini. E da qui abbiamo trovato questo cinema bellissimo, l'Arena Sicoli, che è donato da molti anni, e abbiamo deciso di riaprirlo e ripararlo per riportare il cinema alla gente e la gente al cinema. Il secondo anno non ci hanno più prestato il cinema e ci siamo spostati al Parco della Grotta di Amantea, che è anche molto bello. E quest'anno è un anno molto simile al primo anno perché sembra che tutto ricomincia, sia per il Covid sia perché la grotta è stata abbandonata un anno e la stiamo pulendo, rimettendo a posto insieme a tutta la comunità di Amontea. Cosa prevede questa edizione? 170 cortometraggi da tutto il mondo, dal 7 al 12 agosto, cortometraggi di fiction, animazione, documentario, sperimentale. Abbiamo anche una sezione per i bambini che si chiama La Grotta dei Piccoli, in collaborazione con UNICEF Italia, che sarà disponibile tutti i giorni, sempre tutto ingresso libero. La sessione è in più, inizieremo il festival il 7 agosto con un concerto dell'Orchestra dei Fiati Mediterranea e un tributo a Ennio Morricone. È prevista anche la presenza di autori e autrici? Allora, veramente non abbiamo potuto invitare nessuno per causa Covid, però ieri è arrivata una regista norvegese che ha deciso comunque di venire ad Amantea e prenotare da sola qua un albergo perché voleva vedere il suo film. Sì, diciamo che alcuni verranno a vederlo, però purtroppo sì, sarà un anno un po', una edizione un po' più piccola, però non meno coraggiosa. Quali saranno i luoghi e gli orari del festival? Dal 7 al 12 vi aspettiamo al Parco La Grotta dalle 9 di sera a mezzanotte e sempre il 7 agosto dopo la prima serata alle 2 del mattino faremo una proiezione per i più coraggiosi alle 2 del mattino e al Lido Carioca, che è una sezione di film sperimentali. Quest'anno saranno questi luoghi del festival, non abbiamo deciso di concentrarci solo su questi luoghi per una questione anche di Covid, di farlo un po' più possibile. È cresciuto negli anni il festival? Sì, diciamo che è cresciuto moltissimo, arriviamo a una edizione appunto capace di farsi anche in mezzo a un'emergenza sanitaria, perché l'organizzazione che abbiamo ci siamo professionalizzati, diciamo, siamo riusciti a tirare l'attenzione di 11 ambasciate che ci sostengono, di Rai 4 come Media Partner, di diversi sponsor privati nazionali, insomma, devo dire che sì, credo che è cresciuta, abbiamo ricevuto più di 1000 cortometraggi per essere considerati in programma, devo dire che la Guarimba è diventato adesso il festival del cortometraggio più importante d'Italia. Come sta rispondendo il territorio in questi anni? Guarda, devo dire che molto bene, soprattutto quest'ultima settimana che stiamo riparando il parco, lo abbiamo fatto con l'aiuto di tante persone che sono venute a tagliare erba, a raccogliere spazzatura, a dare, insomma, è stato veramente molto molto bello il modo in cui la gente ha deciso di agire per il proprio territorio, perché un parco chiuso, un parco così bello come la Grotta, non va chiuso, e se il festival può essere una scusa per aprirlo e mantenerlo aperto, ovviamente ci fa molto piacere. Ci dai tutti i riferimenti internet per seguire il programma? Certo, potete andare sulla pagina Facebook della Guarimba Film Festival. Siamo su Twitter, su Instagram anche La Guarimba, se andate sul sito www.laguarimba.com trovate tutte le informazioni, abbiamo il programma online, possiamo fare solo mobile, venite. 8ª edizione del Guarimba Film Festival dal 7 al 12 agosto 2020 ad Amantea. Un saluto e un ringraziamento al direttore Giulio Vita, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, vi aspetto venerdì. Grazie. Con Domenico Di Noia, presidente della FICE, Federazione Italiana Cinema d'Essè, per presentare tre progetti in corso: la 7ª edizione di Estate d'Autore, Prime Visioni al Cinema, la 5ª edizione di Racconti Italiani, Documentari al Cinema e la 21ª edizione di Cortometraggi Che Passione. Domenico, ben trovato. Grazie dell'invito. Partiamo dall'Estate d'Autore, ci presenti questo progetto in corso? L'Estate d'Autore è un'iniziativa che la FICE ormai da 7 anni propone, per cercare di segnalare quelli che nel periodo estivo, che notoriamente non è mai un periodo molto ricco di uscite cinematografiche, un gruppo di film che si può connotare come cinema indipendente, film di cinematografie meno conosciute, che alcuni distributori hanno il coraggio di proporre nel periodo estivo, anche perché noi ci siamo resi conto che sempre di più c'è un numero di sociale che rimaneva aperto nel periodo estivo, e era necessario che ci fossero anche dei film nuovi, perché il periodo estivo, il periodo in cui ci sono le arene, che sono una tradizione del nostro paese, però le arene hanno una programmazione che è tutta incentrata a mostrare il meglio di quello che era stata la stagione cinematografica precedente, e quindi per le sale c'era la necessità di avere dei nuovi film. Purtroppo quest'anno viene dopo una stagione che è stato il 2019, molto importante, perché per la prima volta in Italia non solo il film per le sale di sé, ma c'è stata una stagione nel 2019 con l'iniziativa anche di Movement, che finalmente ha portato anche l'Italia ad avere nel periodo estivo molti film importanti che uscivano negli altri paesi europei. Purtroppo il coronavirus ha un po' bloccato questa esperienza e siamo ritornati a avere pochissimi film in questo periodo. Le sale sono state riaperte solamente dopo metà giugno, e quindi era particolarmente importante individuare alcuni film che potessero essere segnalati al pubblico di sé e al pubblico di qualità. Si tratta di 12 titoli, vero? 12 titoli, alcuni di questi erano proprio usciti nel momento in cui è scoppiata la pandemia e quindi sono rimasti poi bloccati. Per esempio abbiamo inserito il film di Giorgio Diritti, Volevo nascondermi, perché il film di Diritti è uscito proprio nei giorni in cui le sale hanno cominciato a chiudere, in particolare nel nord Italia, per esempio, non è mai uscito, perché le regioni del nord hanno chiuso una settimana, 10 giorni prima di tutte le altre, quindi per il nord Italia era un film non ancora uscito, ecco. Così come pure alcuni titoli che sono passati, qualche titolo è passato anche in piattaforma. Per lo più direi che sono titoli che, grazie ad alcuni distributori, in particolare la Movie Inspire di Stefano Iacono, escono in Italia in questo momento, anche se purtroppo dobbiamo sottolineare che siamo in un periodo difficile. È inutile nascondersi che, per esempio, oggi circa il 10% delle sale italiane sono aperte, e tra quelle che hanno riaperto ne troviamo molte che sono sale di sé, che hanno voluto non interrompere completamente il rapporto con il pubblico, e come probabilmente faranno alcuni che andranno a riaprire a fine agosto, inizio di settembre, magari contemporanei con il Festival di Venezia. Per noi era importante, nel momento in cui c'è stata la possibilità da parte delle autorità, quindi da parte del governo, di dare la possibilità alle sale cinematografiche di riaprire, anche se ricordiamo con grandi limitazioni, perché purtroppo ci sono limitazioni sia dal punto di vista del numero di spettatori che si possono mettere in sala, ma anche persistono condizioni di misurazione della febbre, di controllo, che sono tutta una serie di elementi che sicuramente non incoraggiano il pubblico in questo momento a frequentare le sale. Però, come ripeto, era una iniziativa che non potevamo non proporre anche per quest'annata, però purtroppo appunto è funestata da una situazione terribile dal punto di vista delle condizioni sanitarie del nostro paese. Possiamo fare dei titoli, perché abbiamo citato solo Non volevo nascondermi, c'è il film di Vincenzo Marra, La volta buona, c'è il film di Mario Pivetta, L'agnello, Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, e poi anche in francesi e di altri paesi, di altri paesi europei. Ecco, 12 film, insomma, che vale la pena scoprire. Dicevamo, quinta edizione di Racconti Italiani per quanto riguarda una selezione di documentari. Ecco, quella dei documentari è un'iniziativa a cui la Lice tiene molto, perché molto spesso, l'abbiamo visto anche in passato, ci sono dei documentari che si affermano anche nei festival più prestigiosi. Basta pensare al nostro Gianfranco Rosi, che con Fuocampare e con altri importanti documentari ha vinto festival straordinari come il Festival di Venezia e altri festival in giro per il mondo. Sempre di più il documentario, appunto, è un formato cinematografico che interessa il pubblico, e spesso ci troviamo delle opere davvero molto, molto interessanti. C'è per fortuna una bella produzione di documentari nel nostro paese, e noi come sempre cerchiamo di segnalare e di portare all'attenzione delle sale cinematografiche quelli che riteniamo essere davvero dei documentari che si sono distinti, e per questo abbiamo film importanti come appunto Cercando Valentina, Mother Portress, 80 subito di Alessandro Piva. Il bel documentario Sono innamorato di Pippa Bacca, che appunto ripercorre la storia sfortunata di questa straordinaria ragazza. Davvero anche qui un gruppo di 8 documentari che vale la pena seguire. È un'iniziativa che è stata lanciata all'inizio dell'anno, che però si è interrotta immediatamente, quindi mi sembra giusto che da ora in avanti, ecco, perché Racconti Italiani dura fino alla fine dell'anno, quindi ci sarà occasione per le sale di poter mostrare molti di questi documentari all'interno della programmazione. E poi c'è spazio anche per i cortometraggi? I cortometraggi sono spesso una straordinaria fonte di scoperta per quanto riguarda giovani autori. Noi siamo alla 21ª edizione di Cortometraggi Che Passione. Anche sui cortometraggi abbiamo una vasta produzione, anche perché appunto sia per il formato che per i costi, spesso è una palestra o per autori affermati o anche soprattutto per giovani, cioè per giovani che si segnalano per la loro capacità artistica di condensare poi i piccoli film, che quasi tutti hanno una durata di 15 minuti, quelli che proponiamo quest'anno, per raccontare storie molto, molto importanti. Quest'anno in particolare cazzo segnalare che metà dei registi sono donne, quindi c'è anche una scuola di registi donne che si stanno fermando. Nel gruppo dei cortometraggi di quest'anno, per esempio, c'è l'esordio di Emilia Mazzacurati, la figlia del grande Carlo Mazzacurati, che esordisce con un cortometraggio molto interessante, Manica al vento. Poi abbiamo altri cortometraggi come La gita, come Il fagotto, come Il muro bianco, Supereroi senza superpoteri. Sono davvero dei piccoli, fantastici film che hanno già avuto un percorso, perché molti di loro hanno vinto dei premi importanti in festival in Italia e all'estero e meritano davvero di essere visti da un pubblico cinematografico su un grande schermo. Su questo noi abbiamo già organizzato a Roma, al Cinema Farnese, una prima serata con la presenza di alcuni dei registi che è andata molto bene. A breve in tutta Italia ci saranno altre sale, a Milano e in tutte le altre città, che potranno riproporre i cortometraggi sia in un'unica occasione, quindi in un'unica serata tutti insieme, ma è possibile anche che siano proposti invece singolarmente, magari davanti a qualche lungometraggio all'interno appunto di una programmazione cinematografica. Mi auguro che anche quest'anno si ripete il successo che hanno avuto i cortometraggi anche nelle stagioni precedenti. Per tutte le informazioni c'è il sito internet della FICE. Della FICE, esatto, www.fice.it, dove si trovano tutte le informazioni sul dove è possibile vederli e quando è possibile vederli. 7ª edizione di Estate d'Autore, prime visioni al cinema, la 5ª edizione di Racconti Italiani, documentari al cinema e la 21ª edizione di Cortometraggi Che Passione. Un saluto e un ringraziamento a Domenico Di Noia, presidente della FICE, Federazione Italiana Cinema d'Esse. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e viva il cinema. Grazie. Con Pietro Liberati di Trent Film per presentare L, una vita on the road di Babis Makridis al cinema da giovedì 30 luglio 2020. Pietro, ben trovato. Buongiorno. Lo descriviamo brevemente? L è la storia di un uomo senza nome, chiamato l'autista dal regista, che vive all'interno della sua macchina. Non scende mai, lui di lavoro guida e basta, e la sua missione nella vita è portare un barattolo di miele ogni giorno a un signore misterioso. E un giorno l'autista viene messo in crisi da un ritardo che causa il suo licenziamento e quindi si trova a fronteggiare l'eventualità di dover scendere dal veicolo alla fine. Non dico di più, perché poi, come nel film precedente di Babis Makridis, Miserere, c'è una svolta, diciamo, e vediamo che il protagonista fa una cosa che non ci aspetteremo. un film del 2012, si tratta di un recupero. Perché in questo periodo storico che stiamo vivendo, tutt'altro che facile, era arrivato il momento di ricominciare a proporre dei contenuti originali per le sale. E chiaramente le sale d'essai devono proporre dei film d'essai. Quale miglior posto per andare ad approfondire la poetica di un autore fino a poco tempo fa sconosciuto della sala cinematografica? Quindi abbiamo deciso, differentemente da come si fa in questo periodo, vengono lanciati film contemporaneamente sulle piattaforme e in sala, di uscire direttamente al cinema e solamente lì con un film che poteva servire ad ampliare gli orizzonti geografici e non solo di una fetta di pubblico appassionata che in questo momento sta timidamente rientrando in sala. È il suo secondo film ad arrivare in Italia, raccontiamo un po' il suo percorso e anche l'accoglienza internazionale. Elle è un film che ha girato nei festival, soprattutto europei, ed è andato in America, è stato il primo film greco a partecipare al Sundance Film Festival di Robert Redford, dove poi è andato anche il successivo Miserere. Non ha avuto una grande circolazione commerciale, ma è il film che il suo autore ama di più. Infatti è stato molto contento di questa possibilità in Italia, dove tra l'altro Miserere ha avuto il suo eco più grande a livello mondiale. Quali sono gli aspetti che più ti hanno convinto di questo lavoro? Con pochi tratti e anche con un budget molto limitato, perché la lavorazione diciamo si è basata sull'utilizzo di maestranze amiche, attori amici, quindi con pochissimi mezzi la regia riesce a costruire un suo piccolo universo veramente coerente che prende forma davanti agli occhi dello spettatore. Alla fine, con questo umorismo raggelante di cui è rivestito il film, ci si trova a vivere in empatia con un personaggio assurdo. Ci racconti anche di questa nuova distribuzione? Sì, Trend Film è nata da pochi mesi sulla base di esperienze nel mondo del cinema di tanti piccoli professionisti, tra cui me, e è un'esperienza, diciamo, nuova che si rivolge prettamente alla divulgazione del cinema indipendente europeo. Quindi questo primo titolo che abbiamo scelto di portare al cinema in estate, in un momento appunto difficile, è il primo passo, a cui ne seguiranno altri a settembre e ottobre, sempre film europei, sempre di grande qualità, sempre provenienti da grandi festival e grandi autori. Che tipo di uscita sarà? Chiaramente, uscendo in un periodo in cui molte sale sono chiuse, punterà essenzialmente sulle grandi città e su quelle sale dove Miserere ha avuto una buona eco. Miserere è un film che è andato bene in quasi tutte le grandi città in cui è stato proposto e il pubblico se lo ricorda ancora, chiede notizie del film e vorrebbe saperne di più sostanzialmente di quello che ne è stato del suo autore. Con l'approssimarsi della nuova stagione contiamo di far arrivare il film anche nei cineforum e nelle città più piccole. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Il nostro sito internet è www.trendfilm.it e vi lascio anche il riferimento web di una sottoscrizione che noi abbiamo fatto come distributori, perché sosteniamo il lavoro delle sale indipendenti che in questo momento stanno riprendendo tutte coraggiosamente il timone per prime del cinema in Italia, quando ancora i grandi gruppi di esercenti stentano a trovare la strada per riaprire, insomma. Il sito internet di riferimento di questa iniziativa è lassi.cloud ed è appunto un sito dove c'è la lettera aperta per il sostegno all'esercizio cinematografico indipendente italiano che noi abbiamo sottoscritto come Trend Film. Elle, una vita on the road di Babis Makridis al cinema da giovedì 30 luglio 2020. Un saluto e un ringraziamento a Pietro Liberati di Trend Film che lo distribuisce. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima, grazie a voi. Con Alberto Crespi, co-direttore della 26esima edizione del Festival del Cinema Restaurato, Narni, le vie del cinema. dal 4 all'8 agosto 2020. Alberto, ben trovato. Ben trovato a te, ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori. Ci racconti di questa edizione? Intanto vorrei dire che, ma vale per tutti i festival piccoli e grandi che si stanno svolgendo in questo momento, che è un miracolo farla. Francamente in primavera non pensavamo o non eravamo per nulla sicuri che ci fossero le condizioni per realizzare la nostra rassegna, ma poi pian piano, alla luce delle direttive governative, alla luce di ciò che il comune di Narni riusciva a organizzare e a investire, abbiamo pensato di buttarci, ecco. Abbiamo slittato di un mese perché normalmente il nostro festival si faceva all'inizio di luglio, facciamo 5 serate anziché le 6 delle edizioni scorse, però i film restaurati sono lì, sono al Parco dei Pini di Narni Scalo come sempre. Chi ha frequentato il nostro parco ricorderà che le proiezioni avvengono su uno schermo gigantesco e in una zona del parco, un prato in sostanza, molto ampio, per cui riusciremo ad avere tutti i posti disponibili. Basterà distanziare le sedie, ma c'è spazio per farlo, a differenza che in una sala cinematografica. Per cui spero che saranno comunque serate interessanti e anche quest'anno abbiamo scelto 5 restauri, film italiani, tutti realizzati dalla Cineteca Nazionale, che lavora all'interno del centro sperimentale, come sappiamo, che sono un po' un modo di rileggere la nostra storia, la storia del nostro paese, il filo rosso che ci siamo dati nelle ultime edizioni. Illustriamo un po' quali sono questi 5 lavori. Mi fa piacere partire da Tiro il piccione di Giuliano Montaldo, perché è un restauro importante ed è una cosa dovuta al fondatore del nostro festival, perché Giuliano Montaldo è stato il primo direttore delle Vie del Cinema e continua a curare la manifestazione assieme a me e assieme al comune di Narni, appunto. Tiro il piccione, il suo film d'esordio, che nel 61 andò alla Mostra di Venezia e fu stroncato dalla critica perché era un film un po' in anticipo sui tempi, parlava della Repubblica di Salò, della scelta sciagurata, ma all'epoca anche comprensibile, per così dire, di un giovane che dopo l'armistizio dell'8 settembre decide di continuare a combattere nelle file della Repubblica Sociale. Il tema allora era ancora tabù e il film non fu capito. Anni dopo, per fortuna, questo restauro permette di rivedere questo film che era diventato un po' maledetto, anche per il suo regista, che è molto contento del fatto che si possa finalmente vederlo e ragionarci sopra in maniera più pacata e più distanziata rispetto ad allora. Poi c'è un restauro di un film recente, e anche questa forse è una cosa da sottolineare, Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi è un film che ha solo 20 anni, però anche i film così recenti spesso necessitano di una cura, di un lavoro che ne riporti allo splendore i colori pensati dal direttore della fotografia, che in questo caso poi è il figlio del regista, è Fabio Olmi. Peraltro un film bellissimo che ricorda il personaggio rinascimentale di Giovanni dalle Bande Nere, e anche questo è quindi un capitolo della nostra storia che vale la pena di raccontare. Il Medico della Mutua invece è un film del 68 ed è un modo anche di celebrare il centenario di Alberto Sordi, è un film divertentissimo ma è anche un film che all'epoca ebbe successo e fece scalpore al tempo stesso, perché denunciava in maniera ironica e grottesca, come sempre nel caso di Sordi, tutte le storture della mala sanità a cui poi ci siamo dovuti spesso abituare. E La nave va è un film che invece serve a celebrare l'altro grande centenario di quest'anno, quello di Federico Fellini, ma è forse il film di Fellini che più parla della storia d'Italia, perché è un film che racconta un viaggio metaforico di una nave proprio nei giorni dell'attentato di Sarajevo che dà il via alla Prima Guerra Mondiale. E chiudiamo il levare, per così dire, con il quinto film, che è Sette uomini d'oro di Marco Vicario, che è un film delizioso, secondo me. Non è un film che racconta un episodio storico, racconta una rapina in banca fatta da una banda di criminali super tecnologici, ladri in guanti bianchi, per i quali si finisce quasi per fare il tifo. Però è un film molto anni 60, ecco, dalle musiche allo spirito, alla leggerezza, è uno dei film di genere importanti di quel decennio, un film che ebbe un successo strepitoso e che secondo me regge ancora piuttosto bene la prova del tempo. Rispetto al restauro, cosa si sta muovendo? Guarda, se mi viene da risponderti con una battuta, si sta muovendo ed è già notevole di questi tempi, sì. Perché i restauri costano e poi soprattutto, dico una cosa a cui magari molta gente non pensa, i restauri non si possono fare in smart working, non si possono fare in remoto. Per restaurare un film bisogna andare nei luoghi dove le pellicole sono conservate, in questo caso la stessa Cineteca Nazionale, bisogna metterci le mani, capire cosa bisogna fare, poi c'è un processo di digitalizzazione importante che va fatto proprio con il film che è lì, ecco, non puoi fartelo a casa. Sembra una sciocchezza, però il restauro è uno dei lavori che con il lockdown hanno dovuto fermarsi, sospendersi. Però si sta riprendendo sia alla Cineteca Nazionale che alla Cineteca di Bologna e in tutte le cineteche del mondo che lavorano a questo prezioso lavoro, che è un lavoro oscuro, dietro le quinte, un lavoro difficile, tecnicamente molto delicato, ma che poi permette di rivedere i film come sono stati pensati all'epoca. Quindi sì, cioè, le cineteche continuano a lavorare, e i restauri sono anche costosi, per cui speriamo che questo lockdown e la crisi che ne consegue non provochi dei tagli di budget troppo dolorosi, anche se capisco che rispetto ai problemi che abbiamo confrontato in questi mesi, ecco, magari il restauro di un film può essere anche accantonato per un attimo e ripreso successivamente, però è importante non fermarsi mai. A chi ci ascolta diamo i riferimenti web per la programmazione? Sì, levidespino.it oppure tutti i profili social del Comune di Narni, dove naturalmente la manifestazione è ampiamente pubblicizzata. Non serve prenotazione, insomma, proprio per i motivi che dicevo prima, lo spazio è molto ampio, le sedi sono sanamente distanziate e verranno sanificate ogni giorno, ma con una proiezione al giorno è più facile. Sono i festival che hanno proiezioni una dopo l'altra che debbono confrontarsi con il problema della sanificazione delle sale, che comporta del tempo. A Narni sarà quasi uguale agli anni scorsi e già questo è un piccolo segnale di speranza. 26esima edizione del Festival del Cinema Restaurato Narni, le vie del cinema, dal 4 all'8 agosto 2020. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore Alberto Crespi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima, Alberto. Grazie a voi, in bocca al lupo a tutti, state bene. Con Cristiano Gerbino, curatore della rassegna cinematografica Altra Visione, a Roma, Teatro India, dal 5 al 23 agosto 2020. Cristiano, ben trovato. Ciao, buonasera, grazie di avermi invitato. Ci racconti di questo esperimento? Innanzitutto nasce da un rapporto che ho con i ragazzi di Short Theater, che mi hanno coinvolto in questa idea di fare un villaggio del cinema al Teatro India per i prossimi anni, sulla base del bando che l'estate romana metteva Roma Rama metteva a disposizione. E il fatto che durasse 3 anni, che fosse nel posto più bello di Roma, secondo me, che è il teatro India, uno dei posti più belli di Roma per fare queste cose, mi ha convinto subito. Poi in realtà c'è stato il blocco totale di tutto, perché è iniziata la crisi pandemica, quindi ho detto che non torneremo mai più al cinema per un anno a vedere film insieme. E invece piano piano tutto si è un po' sistemato e il bando è andato a buon fine, quindi abbiamo questo enorme privilegio di lavorare per i prossimi 3 anni su questo progetto. Non si tratta solo di proiezioni, ma ci sono diverse altre cose. Diciamo che questa esperienza è figlia di un'altra grande esperienza che ho alle spalle, che è quella del Kino, che vede, diciamo, dal mio punto di vista, l'interesse di portare il mondo del cinema, tutti i cinefili, tutti quelli che vogliono lavorare in questo ambito anche nel futuro, a creare un grande punto d'incontro per costruire progetti nuovi. E quindi, oltre alle proiezioni, che sono quasi tutte presentate in sala da autori, sceneggiatori, registi che diciamo discutono col pubblico sul film che stanno per vedere, ci sono delle masterclass, ci sono degli incontri, il che dovrebbe poi creare tutto quell'aspetto di convivenza, conoscenza delle persone che vogliono appunto lavorare in quest'ambito. Diciamo che è tutto orientato a persone che amano questo mondo e amano questo mestiere, naturalmente anche a chiunque voglia partecipare, a chiunque ami il cinema, a prescindere da quello che vorrà fare nel futuro. Per la scelta dei titoli come ti sei orientato? In pratica c'è questo problema quest'anno che immagino che i nostri audioascoltatori conoscano sulle distribuzioni, un momento difficilissimo per il cinema, c'è stato un tracollo degli incassi, quindi settembre sarà un mese difficile. Io quindi in apertura di questa manifestazione il 22 ho anche invitato tutti gli spettatori andare anche nelle arene private a pagare un biglietto per film nuovi. C'è una limitazione, diciamo, molto corretta che del bando, che diceva che non potevano essere proiettati film delle ultime due stagioni, quindi c'è comunque una limitazione fra virgolette sulle ultime uscite. Sulla base di questo abbiamo lavorato su titoli indipendenti, su grandi commedie americane, su documentari internazionali e su grandi capolavori italiani. Questa è un po' la stella polare che ci ha portato poi a chiudere questa programmazione, quindi film abbastanza non visti, o almeno questa era la nostra speranza, cioè di proporre cose che non fossero già molto molto molto conosciute anche sui capolavori italiani. Per esempio faremo Metti una sera a cena di Giuseppe Codroni Griffi, che è un film interessantissimo, molto molto forte, questo il 5 di agosto. La voglia matta, Bell'Antonio, insomma film che sono, diciamo, patrimonio del cinema italiano, ma che spesso non sono proiettati facilmente. Per quanto riguarda la commedia americana, siamo partiti con Woody Allen, cioè Billy Wilder. L'idea che ci ha sedotto era quella di fare un po' la seconda linea, cioè non i film che tutti hanno visto, ma qualche chicca più speciale. Ad esempio, a parte Mel Brooks, che il 15 agosto ci siamo concessi di fare balle spaziali così in questa specie di festa estiva. E poi ci sono lavori con distribuzioni indipendenti, Movies Inspired, Teodora, con cui abbiamo già lavorato in passato e che hanno dei capolavori nel loro catalogo, che sono film indipendenti, molto forti. Siamo molto soddisfatti, anche se ci sono stati non pochi problemi dato il momento, ecco. Circa 3 settimane, come sarà il calendario quotidiano? Il 4 c'è una nuova preview, perché verrà Mario Martone a presentare Capri Revolution, sai che Mario Martone ha all'epoca fondato il Teatro India, quindi è in qualche modo il padre di tutto quello che è successo finora. E poi dal 5 agosto in poi fino al 23 saranno tutti i giorni, però dal mercoledì alla domenica, quindi 5 giorni a settimana. Tutti i film sono in lingua originale, tutti i film italiani sono sottotitolati in inglese, il che permette anche alle persone residenti in Italia che non sono italiane, penso a tutte le grandi istituzioni che ci sono a Roma, possono vedere film italiani di grande valore con sottotitoli in inglese. In chiusura, per seguire il programma ci lasci tutti i riferimenti web? Un sito che si chiama filmsociety.it e poi c'è una pagina di Facebook e di Instagram che è indiafilmsociety.it. Troverete tutto quanto, anche tutte le masterclass, i calendari degli incontri, sono tutti, sia le proiezioni che le masterclass che gli incontri, a ingresso gratuito. La rassegna cinematografica Altra Visione al Teatro India a Roma dal 5 al 23 agosto 2020. Un saluto e un ringraziamento al curatore Cristiano Gerbino. Un abbraccio, grazie. In bocca al lupo e a risentirci presto. Credi, grazie Federico, a presto, arrivederci. Con Patrizia Salvatori del Cine Club Alphaville per presentare l'arena estiva Alphaville d'estate al Pigneto, al Centro Anziani De Magistris, dal 30 luglio al 30 agosto 2020. Patrizia, ben trovata. E ben trovata anch'io con te e con tutti voi che ascoltate. Sono molto felice che finalmente, se riusciamo anche quest'anno a poter aprire appunto questa arena, mi sarebbe piaciuto molto di più aprirla a luglio, ma purtroppo ci situazioni difficili dovute al Covid, ma non soltanto, non ci hanno permesso appunto di essere prima, come tutti gli anni, ormai sono 19, appunto a proiettare bei film, per ritornare anche un po' alla bellezza. Tra l'altro Federico è stata, come per tutti, insomma, ancora probabilmente, non so, è stata una stagione, un anno difficilissimo, soprattutto per lo spettacolo, per il cinema e per la produzione cinematografica, e in particolare anche per l'associazionismo culturale. Noi facciamo parte di una federazione, che è la Federazione dei Cinefili del Cinema, e ovviamente tutta la situazione, il lockdown, si è riversata negativamente anche proprio sulla fruizione di ogni singolo spettatore. Io spero che la Iena quest'anno possa in qualche modo essere quella piccolissima goccia che ci faccia sentire di nuovo tutti uniti sotto uno stesso schermo, sotto una stessa proiezione, sotto uno stesso gruppo di attori. Insomma, appunto, come diceva Bazin, il cinema è questo, no? È stare tutti insieme, è un rito. Io spero di ricomporre questo rito, speriamo. La piccola arena del Cineclub Alfavilla è un'arena da sempre, come sai Federico, è un'arena molto particolare, insolita anche per la città di Roma, perché propone film del passato, grandi capolavori oppure film, diciamo, un po' dimenticati del passato, li ripropone con una verve, insomma, particolare. E quest'anno la verve è ancora più particolare, perché appunto veniamo da un periodo di chiusura, di costrizione, di visioni singole non ampie, e stavolta la prima serata, giovedì 30 luglio, sarà una serata dedicata al Mediterraneo, e quindi a tutto quanto invece è più possibile pensare aperto, blu, spazioso, libero. Ho pensato di iniziare questa programmazione con un autore poco conosciuto nel nostro paese, ma molto conosciuto ovviamente in Francia, che è nato anche lì, che è Jean-Daniel Pollet. Il 5 marzo di quest'anno Cinematech, con cui noi abbiamo parecchi rapporti via online, stava iniziando a dedicare a Jean-Daniel Pollet, che è questo grande documentarista, autore anche di cinema, che lui stesso, e non solo lui, definì di poesia, stava dedicando una retrospettiva. Il 5 marzo ha chiuso l'Alfa e ha chiuso anche la Cinematech, e Jean-Daniel Pollet non è stato più riproposto. Ho pensato di iniziare l'arena all'aperto proprio con Jean-Daniel Pollet, che ha realizzato negli anni 60 un documentario incredibile dedicato al Mediterraneo, alle vestigie appunto della società greca, e quindi della classicità, della bellezza più bella, se mi permettete. Ho pensato di proporre io stessa, insomma, come se ci fosse un ponte tra la Cinematech, la Francia, Jean-Daniel Pollet e noi, proponendo proprio Mediterraneo, che è questo suo incredibile mediometraggio, dove si va alla ricerca della bellezza, dell'infinito, del blu e delle coste piene di, appunto, grandezza greca. Questo, diciamo, l'inizio, insieme con un altro breve cortometraggio Basset, con la lettura di Mediterraneo in barba da Giorgio Simenon, e la proposta di un breve racconto dedicato al Mediterraneo con, appunto, la sua lettrice e la sua autrice soprattutto, che è la Paola Ferrantelli. Sarà un'arena quotidiana, tutti i giorni un film al giorno? Sì, Federico, da giovedì 30 luglio fino al 31 agosto. Ricordo che il giorno dopo, il 31, si iniziava, diciamo, praticamente molto coccolandoci. Noi dell'Alphaville presenterò io stessa il mio libro, quello che è uscito, doveva uscire il 5 marzo, deve essere una data storica, doveva uscire il 5 marzo sulle barricate dell'anima. È un libro dedicato alla cinematografia di Pierpaolo Pasolini, scritto da me con in appendice due racconti miei personali, che potrebbero essere anche valutati come soggetti cinematografici e dedicati per Paolo Pasolini. Quindi anche quello di venerdì è entrare in un altro mondo, è entrare da un'altra parte. Voglio pure raccontarvi che sempre il 30, quando faremo Pollet, ci sarà una mini Covid serie, una Covid, diciamo, fiction, 8 puntate e mezza in 2 minuti per puntata, con la presenza degli autori, girata a Parigi nei 25 metri quadri di una casa, appunto, di due che sono i protagonisti, di due persone molto care anche all'Alphaville. Lui è un montatore, ha girato questa breve serie insieme con la compagna, davvero spiritosa, grottesca, esilarante, davvero da non perdere. Tra l'altro è stata selezionata, mi ha detto proprio l'autore, in questi giorni di altri festival. Io sono felicissima di proporla tutta insieme, 18 minuti, appunto, giovedì in apertura della serata. Sì, tutti i giorni facciamo comunque. Per questi oltre 30 titoli, che tipo di scelta è stata la tua, Patrizia? In sintonia con alcuni anniversari che mi faceva piacere ricordare, per esempio, c'è l'anniversario quest'anno di Alberto Sordi, noi proporremo però un film di Tinto Brass, poco conosciuto dalle giovani generazioni, sicuramente molto di più dalle altre, quindi scelte anche un po', se mi posso permettere, tra virgolette, azzardate. Noi per esempio in questo caso proporremo Il Disco Volante, un film di Tinto Brass in cui la figura appunto del nostro Alberto Sordi è sicuramente una figura particolare e per certi versi direi proprio insolita. Lui fa il mattatore, un po' come l'ammazzatore di Gassman, e quindi è anche una, non soltanto un ricordo, non soltanto una dedica, un omaggio, ma anche un modo di riscoprire un attore con tante sue sfaccettature. Faremo un omaggio a Peter Sellers con Ciao Pussycat e con la sceneggiatura di Woody Allen, leggeremo molte cose che hanno a fare con Gianni Dodani, faremo appunto una fine settimana dedicato a Michel Piccoli che è scomparso a maggio, con un film introvabile, Milo a maggio, uno dei più bei film della storia del cinema francese e non soltanto francese ma anche con il commissario Pelissier. Faremo un omaggio ad Alberto Moravia che appunto è scomparso nel 1990 e faremo vedere Agostino, un film sottovalutato ma secondo me da rivedere assolutamente in ambientazione estiva e morboso per certi versi di Mauro Bolognini. Faremo vedere naturalmente anche film dedicati per esempio alla Nouvelle Vague che come si sa a me piacciono tanto. Riproporremo il primo Diabolik del 68 di Mario Bava per ricordare appunto la scomparsa di Mario Bava. Farà bene vederlo visto che sta per uscire il nuovo Diabolik, ma faremo anche, chiuderemo per esempio la rassegna con l'Hitchcock inglese di 1929-30 e quindi faremo anche lui in odore di anniversario, scomparso 40 anni fa, ma tanto ci ha insegnato il grande Hitchcock sin dal periodo inglese, sin da quando era ancora con i calzoncini corti, diciamo così. Faremo vedere Omicidio e Blackmail negli ultimi due giorni e poi una serie eccezionale di titoli, ma veramente eccezionali da non perdere: Ostia di Sergio Citti, La Signora di Shanghai di Wells, Dolce di Chitano, il primo film di Wes Anderson, Un colpo da dilettanti, le commedie francesi degli anni 70, molto molto significative, perché anche poi riprese dal cinema americano successivo, per esempio certi piccolissimi peccati di Robert che in realtà ha dato poi vita al remake che in americano e poi in italiano è stata La Signora in Rosso. Ma faremo vedere uno dei più bei come dire noir, ma non soltanto, guardate A Vista di Claude Miller, con uno splendido Lino Ventura, Hollywood Park Il Giorno di Ferragosto e Tre Amici e Moglie Affettuosamente Date di Sotè, il grande noir da colpo grosso di Jacques Becker, lo splendido Caravaggio di Jarman, la collezionista di Romer, il grande Jean-Pierre Molville di Fred Costello Faccia d'Angelo, Mizoguchi e racconti della nuova pagina d'agosto, Il lunedì mattina di Ossoliani, Fredkin, Quando inventarono lo spogliarello, anche questo molto difficile da poter riferire, e La Merlettaia, Questo è impossibile di Claude Goretta, e forse sicuramente mi è sfuggito qualcosa. Federico, c'è molta ciccia dal punto di vista della bellezza, ecco, all'arena all'aperto. Proprio a questo proposito, ci lasci tutti i riferimenti per seguire la programmazione sul web? Naturalmente potete andare su Cineclub al Facebook innanzitutto, dove è pubblicato già tutto, comunicato stampa, le cose che vi ho detto, il programma, quant'altro, il programma giorno per giorno. Io adesso vi ho fatto così uno sfarfallio come faceva Giga Verso per l'uomo con la macchina da presa. Il programma è appunto all'interno di Cineclub al Facebook, il sito è sul Cineclub al Facebook, Facebook, il sito è www.cineclubalfavil.it, Facebook di Alphaville, appunto Cineclub al Facebook, Facebook, e quindi se lo leggete lì è sicuro che alle 20 si fa. 19esima edizione dell'Arena Cinematografica Alphaville d'Estate al Pigneto, al Centro Anziani De Magistris, dal 30 luglio al 30 agosto 2020. Un saluto e un ringraziamento a Patrizia Salvatori. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto, Patrizia. Grazie Federico, viva il cinema, viva tutti noi, grazie, a presto, un saluto a tutti. Con Gaetano Capizzi di Cinema Ambiente per presentare Cinema Ambiente in Val Chiusella, 30 luglio, 9 agosto 2020. Gaetano, ben trovato. Buongiorno, ciao, ciao a tutti. Ci parli di questa iniziativa? Cinema Ambiente Summer Edition, no? Facciamo d'estate in questa valle alpina vicino a Torino, a 50 chilometri, la Val Chiusella, che è un posto molto bello, insomma, anche dal punto di vista naturale è ben conservato, dove c'è, insomma, questa voglia, questa volontà delle varie amministrazioni locali che sono presenti sulla valle di lanciare un po' un turismo slow, diciamo, ecosostenibile, e accoglie volentieri una iniziativa come la proiezione di film a tematica ambientale, no? E tutta una serie di attività che si svolgono intorno, per cui già il terzo anno che organizziamo questa manifestazione, che è molto partecipata sia dalle persone che vivono nella valle che dai turisti, ed è un modo per poter parlare di ambiente in un ambiente naturale, ecco, no? E siamo molto contenti di questo, perché ci permette anche di lavorare in modo più rilassato rispetto al Festival di Torino, tutte le problematiche che ci sono a organizzare un evento metropolitano, ecco, e qui è un'altra atmosfera. Per cui siamo in partenza, no? Giovedì 30 luglio, ci stiamo preparando in questo anno molto particolare, perché siamo una delle prime manifestazioni live che si svolgono con le norme anti-Covid, e per cui c'è tutta una preparazione anche che segue i protocolli sanitari. Stiamo cercando comunque di essere molto scrupolosi, tutto comunque sembra pronto per partire nel migliore dei modi. Quanti sono i titoli presentati? Ecco, la Val Chiusella ha 8 comuni e noi presenteremo 8 lungometraggi e 8 cortometraggi, uno per ogni comune. È una manifestazione all'aperto che si svolge la sera, per cui abbiamo 16 film in tutto, e delle attività collaterali che sono degli incontri, no? Avremo qui degli ospiti, da Luca Mercalli a Don Luigi Ciotti, registi anche, appunto Jean-Michel Bertrand, che è l'autore di un film che si chiama Sherlock Le Loop. Bertrand è uno, diciamo, degli autori di cinema ambiente, ha già mostrato vari film a Torino, e questa è l'anteprima italiana di questo nuovo film sui lupi, dove lui è sulle tracce di questi lupi che si muovono in modo strano, cerca di capirne la logica. Per cui ci sono film, incontri, passeggiate nella natura, questa è anche una cosa molto bella. In occasione di Cinemete verrà inaugurato un percorso nei boschi per non vedenti, tutta un'organizzazione per questo. E questa inaugurazione possono partecipare anche le persone vedenti, ma bendate, no? Per, insomma, avere più esperienza sensoriale. E poi ci sono un'iniziativa che si chiama Bagno di Foresta, faremo dei bagni di foresta, per cui inoltrandosi e facendo delle pratiche un po' di concentrazione e di contatto con la natura. Ci sarà una giornata del benessere con tutta una serie di pratiche di yoga, eccetera. Per cui sono film che stimolano anche una fase di rilassamento del pubblico, di contatto con la natura. È uno spazio dedicato ai bambini, tutti i giorni ci sono dei laboratori da come produrre il miele, come fare il formaggio, i detersivi naturali, per cui i bambini anche saranno a contatto con la natura. Si crea un'atmosfera bella in questo posto magico, e in cui c'è spazio per discutere, approfondire i temi. Cosa importante è che questa iniziativa fa parte di un progetto europeo, l'acronimo è CINE, di questo progetto europeo che ha come capofila Slow Food, che ha come scopo di portare il cinema in luoghi dove il cinema non c'è, come in questa valle che non ha un cinema, no? E noi siamo qui con un furgone elettrico, gireremo i vari paesi e monteremo questi schermi all'aperto, queste sale open air per la proiezione dei film, per i dibattiti, per cui è una dimensione molto diversa dai festival a cui siamo abituati tutti noi. Ogni giorno un paese diverso? Ogni giorno un paese diverso, 8 paesi, 8 giornate, dal mattino alle 10 fino a mezzanotte, con attività che avevo descritto prima, le norme sanitarie molto strette, perché vogliamo essere un po' d'esempio sull'osservazione delle norme che sono prescritte. Ci lasci tutti i riferimenti web per il programma? Tutto questo che ho detto si può trovare sul sito di Cinema Ambiente, www.cinemaambiente.it. È obbligatoria la prenotazione, per cui bisogna andare sul sito, prenotare, lasciare i propri dati, perché appunto una delle norme è la conservazione dei dati per 2 settimane, e allora si accederà poi con QR code che viene generato dalla prenotazione, ci si presenta nel luogo di proiezione con una stampa o con l'immagine sul cellulare e si può entrare, per cui vi aspettiamo numerosi. Terza edizione di Cinema Ambiente in Val Chiusella, dal 30 luglio al 9 agosto 2020, un saluto e un ringraziamento a Gaetano Capizzi. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima, Gaetano. Grazie a voi, grazie di seguirci sempre con attenzione. Arrivederci. Con Matteo Pavesi della Fondazione Cineteca Italiana per presentare l'arena estiva Lido Milano Live. A Lido di Milano dal 27 luglio al 31 agosto 2020. Matteo, ben trovato. Ben trovati a tutti, insomma grazie dell'invito. Beh, è una bella scommessa questa di questa rassegna al Lido per un paio di motivi. Uno, perché lo schermo non sarà un tradizionale schermo di un'arena all'aperto, ma sarà il nostro cinemobile, quindi un furgone che portava in giro il cinema degli anni 30, restaurato, quindi ci avrà uno schermo montato appunto su questo bellissimo furgone appunto d'epoca. E poi il Lido, quindi negli anni 30 questo furgone, come il Lido ha vissuto il suo massimo splendore come luogo internazionale di divertimento proprio negli anni 30. Quindi questa è un'abbinata molto bella, è un'abbinata molto interessante, curiosa, diversa dalle normali arene estive. Si ha la possibilità di vedere un luogo che magari non li conoscono più per nome, ma magari non frequentano da tempo, un luogo molto bello, molto molto affascinante, che è un modo di proiettare il cinema come quasi 100 anni fa. La rassegna tocca alcuni temi, sicuramente il tema della sostenibilità, insomma dell'ecologia, ma anche il tema del food, il tema del viaggio. Questi tre temi attraversano un po' la scelta del film, accanto a degli omaggi doverosi come il centenario di Gassman e di Sordi. Partiamo con un film di viaggio molto bello, un po' dimenticato dai premi, che è Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores. Poi il 29 luglio c'è un bellissimo film di Fatia Akin di qualche anno fa sul cibo, che è Soul Kitchen. Ah, e poi appunto l'altro elemento, appunto, scusatemi, è il tema un po' dello sport, perché il Lido insomma si distingue in questi anni per essere appunto un luogo dove si pratica sport, calcetto, tennis e discorrendo. E per cui il 30 c'è Tonia, che è un film molto bello su questa pattina attrice. E poi così sulla sostenibilità riprendiamo il film di Wenders, Il sale della terra. Viaggio c'è Il cammino di Santiago, che è un grandissimo bello, un grandissimo bel film. E poi sul cibo ritorniamo con l'India e Lancia Box. Non ci resta che vincere un altro film sportivo come Sette uomini a mollo, insomma sono film di spirito sportivo, sono delle commedie molto divertenti. E sul cibo riprendiamo un film storico dei primi anni 90, fino agli anni 80, che è Big Night, che è un film molto bello. Due domande, sarà una programmazione quotidiana e poi quanti film al giorno? L'offerta del Lido è un'offerta composita, noi ci occupiamo di cinema, abbiamo appunto dal 27 al 31 proporremo 14 proiezioni, sono 14 proiezioni che si svolgono il lunedì, il mercoledì e il giovedì, queste sono le cadenze classiche, però vi invito poi a esplorare il sito e a controllare bene la programmazione. Comunque sono questi tre giorni normalmente, mentre nelle altre giornate, soprattutto nei weekend, ci sono momenti di musica, di teatro, di canto, di cabaret, quindi insomma ogni giornata ha una propria caratterizzazione. Nel complesso quanti sono i film proposti? Sono 14, un po' su questi temi, poi abbiamo due restauri, uno legato all'animazione, degli anni 60, è un film per tutti che faremo il 27 di agosto, che è Putiferio va alla guerra, Gavioli, che anticipa tutto quel mondo microscopico degli insetti, questa è una lotta tra formiche sostanzialmente. Chiuderemo il 31 con un omaggio allo sport, ma anche al cinema classico, con College e con Buster Keaton. È Buster Keaton che si esercita in tutte le discipline sportive. Se non sbaglio c'è un sito internet apposito. Lido Live. è un po' il sito di questa estate al Lido. L'organizzazione, insomma, è guidata da Red Egg, questa associazione molto attiva che ha saputo coinvolgere insomma altre realtà, e noi facciamo in questa estate al Lido la nostra parte, insomma. Lido Milano Live, al Lido di Milano dal 27 luglio al 31 agosto 2020. Un saluto e un ringraziamento a Matteo Paresi della Fondazione Cineteca Italiana che ci ha presentato questa arena estiva. Matteo, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a voi, buon estate. Con Cobra e Bluva di Cinemaforte per presentare la rassegna 100 celle City Movies, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 7 luglio all'11 agosto 2020. Ben trovati. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ci presentate questa iniziativa? 100 celle City Movies parte dal 2013. Lo spazio del Cinemaforte comunque risale ai primi anni di occupazione ed è stato il primo ad essere ristrutturato e rimesso in funzione. Poi da là comunque ci sono stati molti lavori fino ad oggi e seguiti da noi, molti autofinanziati come tutto il resto del centro sociale dello spazio Prenestino. Nel corso degli anni per l'appunto siamo passati dalle prime proiezioni in 16mm ad una regolare programmazione fino a VHS, DVD e oggi proiettiamo in Blu-ray. Quando non si trovano i film, reperiamo anche questi file che una comunità internazionale condivide allegramente. Ci sono delle squadre fenomenali di gente che sottotitola questi film per puro interesse artistico e culturale, quindi a noi ci piace anche propagandare queste forme. Sì, infatti facciamo rassegne anche di vario genere, tipo cinema indipendenti, documentari, autoprodotti, lingua anche originale con sottotitoli, eccetera. Sì, le proiezioni così sono anche su temi in cui teniamo, che riguardano il movimento e non solo. La cosa che ci piace è presentare sia dei linguaggi, quindi le forme di cinema, eccetera, come anche i contenuti e che hanno bisogno di essere diffusi. Ricordo velocemente il documentario distribuito in Italia in questi mesi che racconta la vicenda di 40 anni e non è soltanto un sistema culturale ma anche di, appunto, difesa di questo spazio che è già di nuovo sottosforato per l'ennesima volta. Insomma, questo più o meno è lo spirito che guida Cinemaforte. Per arrivare alla rassegna, quest'anno siamo partiti un po' in anticipo rispetto al solito. Sono anni che dopo la metà di luglio che abbiamo questa rassegna, che sono due proiezioni contemporanee, quindi due spazi all'aperto, uno durante il Forte nel Palazzo di Via delle Palme e l'arena del Forte Prenestino. E quest'anno abbiamo voluto anticipare questa rassegna perché, insomma, ci troviamo in un anno molto particolare. Abbiamo pensato che dopo, insomma, mesi di discussioni e di assemblee per capire cosa fare di questo spazio in questo momento, proprio per evitare di andare a complicare le situazioni relazionali, no? Quindi pensare alla salute in termini di cura. Cura significa rispetto dei più fragili, quindi promuovere grandi assembramenti oggi, usando proprio questa parola, non ci sembra proprio il caso. Però non vogliamo neanche rinunciare alla socialità e non vogliamo neanche rinunciare a fare durante la pandemia, comunque sono stato attivo il Forte, non soltanto, anche gli altri spazi che sono invece succedono. Perché 100 celle aperte e tutte le realtà che comunque si sono auto-organizzate nella libera assemblea di 100 celle e ha così dato vita a questo gruppo appoggio mutuo. Al cui interno oggi ci sono vari gruppi di lavoro, vari gruppi attivi che si occupano di vari aspetti di, appunto, tutela e cura del territorio, intendendo la sicurezza come qualcosa che deve nascere dalla partecipazione e dalla solidarietà alla vita nelle strade, insomma. Quindi diciamo che in questo testo di comunque non ripiegamento su se stessi, ma anzi di mettersi in gioco, Forte è iniziato a riaprire silenziosamente, e già un mese e mezzo che siamo aperti, abbiamo voluto utilizzare i social per comunicarlo. Non vogliamo che la nostra voglia di socialità, la nostra voglia di condivisione e di invenzione venga manipolata da chi vuole che invece tutto questo abbia una fine, di sgomberi degli spazi sociali e delle case occupate sono in piena attività. Subito dopo la fine del lockdown, Baobab è stato sgomberato di nuovo l'accampamento davanti dietro al Tiburtina, la minaccia degli spazi è concreta, da garage in questa città, però parliamo di un problema che è non solo romano, non solo del paese Italia, ma di tutto il mondo. Si dà contro le forme di autogestione, che sono quelle che invece hanno dimostrato e non devono dimostrare attivamente, la realizzano la sopravvivenza, perché questo, poi quello di cui si sta un po' trattando, probabilmente andrà a esasperarsi. In questo abbiamo deciso di avviare il cinema è una forma di condivisione della cultura e di un'esperienza artistica, e dove si sta seduti, si può stare a distanza e senza pensare di stare a distanza e dover, quindi doversi allontanare o che altro. Abbiamo degli spazi molto grandi, le persone che possono sedersi a vedere un film su grande schermo sotto le stelle sono tante, e quindi abbiamo deciso che il cinema era un ottimo strumento per rispondere alla situazione in cui ci troviamo e alla conoscenza anche appunto di un approccio alla vita in generale, ma anche proprio al cinema strettamente, diciamo, basato appunto sulle forme di autogestione. E questo, diciamo, è tutto quello che ci ha portato a fare questa rassegna, che andrà avanti fino all'11 agosto. In questa città, effettivamente, in questa situazione, ed è un problema serio per tutti quelli, non solo gli artisti, ma anche tutti coloro che vivono delle attività culturali, dei concerti, eccetera, c'è tutto quello che viene chiamato tristemente l'indotto, che poi sono chi lo fa realmente, i tecnici, gli allestitori. Quindi, insomma, è un momento in cui scarseggia sia sul piano lavorativo, ma anche dell'esperienza di poter sfogarsi un attimo senza dover una pattuglia arrivare e dire di sciogliere i sembramenti, chiaramente basato su una questione anche importante, appunto noi non vogliamo stimolare questa cosa, invitiamo la gente a pensarci due volte quando vuole organizzare un evento celebrativo, ma insomma questa è un po' la situazione. Vabbè, torniamo a piombo sui film di questa rassegna. È previsto anche l'incontro con autori e autrici? Sì, quello che abbiamo per ora per certo è il 28 luglio, che è un martedì, e presenteremo questo documentario, è intitolato Dentro il collettivo, realizzato da Lorenzo Mellegari, che è un regista di Parma, che documenta 7 anni di attività, di attivismo e militanza dello spazio occupato Art Lab, uno spazio occupato da universitari a Parma, appunto, e che ha seguito per 7 anni, e ci racconta quello che è fare un'autogestione, una realtà particolare, con modalità particolari, ma la questione che veramente ci preme dove parlare appunto dell'autogestione, di quello che può voler dire sia delle esperienze di vita che di sogni che si vogliono realizzare. Il film ci è piaciuto molto, è stato distribuito da un importante distributore del web italiano durante la pandemia e ci è piaciuto moltissimo, siamo insomma molto contenti, e Lorenzo verrà giù per presentare questo film. Ci lasciate tutti i riferimenti internet per le informazioni sulla programmazione? Sì, potete andare su www.partepreonestino.net e cliccare attività oppure vi compare lì. Comunque ricordiamo che è già partito il cinema dal 7 luglio e continueremo fino a martedì 11 agosto, tutti i martedì e giovedì dalle 22. Stanno Zarene e quest'anno comunque assieme ai genitori del Forte abbiamo dato spazio anche ai più piccoli, abbiamo creato Centro Celle B&B Movies, che sarà ogni venerdì dalle 6:30 nella piazza di sinistra sotto la copertura Ego, per forza. Quindi vi aspettiamo anche i più piccoli. E vi invitiamo a venire a consultare il programma sul sito forteprenestino.net, trovate sulla pagina eventi CSOA Forte Prenestino, trovate gli annunci dei vari film giorno per giorno, vi invitiamo a consultare il programma, se va tutto bene proietteremo il documentario Cosa fare quando il mondo è in fiamme di Roberto Minervini, che è un autore nostrano che sta negli Stati Uniti, si è formato là, con un linguaggio documentaristico veramente, veramente stimolante, interessante, che racconta la realtà del Black Lives Matter, giusto per non scordarsi di quello che sta succedendo oltreoceano da ormai mesi. E poi vi invitiamo, in preparazione a questa proiezione che sarà ad agosto, ci sarà una doppia proiezione del documentario su Bobby Seale, Black Panther di Agnès Varda del 69, e il film Size the Time di Antonello Branca, sempre di quell'epoca, giusto per farsi un'idea che quello che succede oggi ha delle radici. Parlare di Black Lives Matter oggi significa riagganciarsi con tutta una storia che in realtà ci riguarda tantissimo, visto anche gli atti di razzismo che continuano a fioccare in queste cronache estive. Poi abbiamo altre chicche tipo Emma di Larrain, che non è stato distribuito in Italia, MFA di Leite, che è un altro gran bel film. Insomma, veniteci a trovare. Centocelle City Movies, un saluto a Cobra e Bluva. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Ciao. Ciao, grazie. Con Matteo Leurini, il promotore di Sunset Drive-In a Roma, Cinecittà Studios, da venerdì 3 luglio 2020. Matteo, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Ci presenti questo progetto? Sì, allora venerdì apriremo questo drive-in all'interno, insomma, di Cinecittà Studios, un po' la casa mondiale del cinema. Avremo una programmazione che andrà dal venerdì alla domenica con due proiezioni a sera. Film di ogni genere, dal retro a film un po' più attuali, insomma, una vasta selezione. Siamo pronti a partire, insomma, vi aspettiamo. Com'era partito il progetto? In quarantena ho l'idea insieme ad altri amici e piano piano l'abbiamo portata avanti, e finalmente abbiamo capito che, insomma, era fattibile. Ci siamo resi conto che era una buona idea, quindi abbiamo poi iniziato a lavorarci su molto più duramente. Si è risultato molto più complicato del previsto, però ecco, ci siamo quasi. Sulla scelta dei film, cosa vi siete concentrati? Abbiamo voluto riproporre dei film che, secondo noi, almeno su un piccolo studio che abbiamo fatto, molti ragazzi non hanno visto, quindi film storici, ad esempio Grease, Pulp Fiction, cioè sembra assurdo, ma comunque i ragazzi che oggi hanno 15-20 anni, non tutti hanno visto questi film e sicuramente nessuno sul grande schermo. Abbiamo voluto un po' riproporre questi film, diciamo, cult. Tecnicamente come funzionerà? Sarà una biglietteria online e anche una biglietteria in loco, quindi vi basterà arrivare, ci sarà un check-in digitale e una volta dentro basterà sintonizzarsi sul canale FM, inizia la proiezione, poi direttamente dal telefono tramite un messaggio si potrà ordinare la cena comodamente dal proprio posto. Diciamo che sarà necessario abbandonare la vettura solo per utilizzare i servizi igienici, ecco, per andare al bagno. Che cadenza avranno le proiezioni settimanalmente? Venerdì, sabato e domenica, una alle 21 e un'altra alle 23.45, poi è chiaro che andando avanti con la stagione speriamo di poter anticipare un po', ma ad oggi purtroppo il sole tramonta alle 9, purtroppo, per fortuna, e quindi non ci permette di iniziare prima, ecco. Che ampiezza ha il drive-in? Stiamo ancora finendo le ultime postazioni, ma siamo tra i 140 e i 160 posti, ecco. Dipenderà molto da un po' da come vorremmo rendere vivibili gli spazi. I film sono in digitale o anche in pellicola? Sono tutti in digitale. Tutti in digitale. No, non siamo riusciti a installare una produzione a pellicola, purtroppo. Però ecco, lo schermo è molto grande, è 14x7, abbiamo un proiettore abbastanza con tantissimi anti-boom, quindi il risultato sarà sicuramente ottimo a livello di visivo. Sentire l'audio direttamente dalla propria macchina, se uno ha un buon impianto, può essere una cosa molto figa. I film in programmazione da che anno a che anno vanno? Quelli che stiamo scegliendo anche per il palinsesto futuro partiamo dagli anni 60 e arriviamo al giorno d'oggi. Okay. Quindi veramente ogni genere. Cartoni animati faremo anche, domenica ci sarà anche incastrato Roger Rabbit. Per tutte le informazioni ci dai dei riferimenti internet? Assolutamente sì, o su Facebook o su Instagram al profilo Sunset Drive-In, oppure direttamente sul sito sunsetdrivein.it si può fare l'acquisto dei biglietti online. Perfetto. E con la scelta del posto. Sunset Drive-In a Roma, Cinecittà Studios, a partire da venerdì 3 luglio 2020. Un saluto e un ringraziamento al promotore Matteo Leurini. Un abbraccio, un in bocca al lupo. Buona serata. E a risentirci presto, Matteo. Grazie, grazie mille, vi aspetto. Con Vittorio Sclaverani, uno dei curatori di Un'estate al cinema, Barriera è casa mia, 18 serate di cinema per 21 film in versione silent movie a Torino, all'Arena Cineteatro Monterosa, dal 6 luglio al 12 agosto 2020. Vittorio, ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao. Ci racconti di questa iniziativa? È un progetto curato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema e dal Teatro Monte Rosa, che è un importante presidio culturale, è l'unico cinema rimasto nella parte nord della città. L'Associazione Museo del Cinema ormai dal 2013, quando abbiamo festeggiato i 60 anni della nostra associazione, abbiamo iniziato a curare una serie di proiezioni estive che, appunto, chiamando questo progetto Un'estate al cinema. L'abbiamo fatto per 7 anni in forma diffusa, soprattutto nelle case del quartiere e in periferia. Poi ovviamente quest'anno è successo quello che sappiamo tutti, i luoghi di cultura, i teatri, il cinema sono state, come dire, le prime realtà a essere chiuse e anche le ultime a riaprire. Visto che quest'anno 2020 la città aveva deciso di investire molto soprattutto nella comunicazione per quanto riguarda il cinema, perché sono 20 anni dall'inaugurazione del Museo del Cinema e della Film Commission Torino Piemonte, ha deciso anche in ottica proprio di ripartenza di aprire un bando per una serie di arene estive. Noi siamo la prima ad aprire, siamo la più periferica perché le altre sono più in zona centrale San Salvario e siamo anche la più popolare in termini economici perché c'è un solo biglietto di 3 euro e in più c'è anche la possibilità del biglietto sospeso, ovvero magari chi ha qualche risorsa in più può decidere di lasciarla all'ingresso per pagare un biglietto, più biglietti, una parte di un biglietto per chi ha più difficoltà in questo periodo a permettersi di fruire cultura. La selezione dei film? È molto eterogenea. Ogni settimana c'è un tema, per esempio la prima settimana è dedicata al cielo e alle stelle, lunedì 6 luglio c'è La Luna su Torino, mercoledì 8 c'è Star Stuff, che è un documentario di un regista iraniano che però vive da tanti anni qua a Torino, Milad Tanshir, che racconta la comunità, diciamo, sia scientifica che anche proprio degli abitanti che ruotano intorno a 3 osservatori internazionali in Sud America, in Sud Africa e nell'Oceano Atlantico. E poi l'ultimo invece della settimana è Si alza il vento, che è l'ultimo film d'animazione firmato da Miyazaki, il maestro del cinema giapponese. Però per essere, come dire, più semplici, la programmazione andrà avanti fino al 12 agosto e il lunedì è più film di finzione, d'estè, il mercoledì è più dedicato al cinema indipendente, ai documentari, e invece il venerdì è più per famiglie. Abbiamo voluto lavorare molto su questo aspetto perché comunque Barriera di Milano è un quartiere, a differenza di altri, molto giovane, anche grazie alle comunità straniere. E diciamo il pubblico giovane e le famiglie forse sono state anche i nuclei più colpiti dal lockdown, con anche la chiusura delle scuole, eccetera. Il programma è quotidiano? Ogni settimana ci sono 3 proiezioni, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. L'unica settimana che cambiano leggermente i giorni è l'ultima, quella del Ferragosto, perché accorpiamo le 3 giornate, lunedì 10 agosto, martedì 11 agosto e poi chiudiamo mercoledì 12 agosto con un film che è molto Torino città del cinema, perché è una delle prime produzioni internazionali che sono state girate a Torino più di 50 anni fa, The Italian Job, un colpo all'italiana, che è celebre perché appunto con una produzione inglese che ha come protagonista Michael Caine, e sono celebri gli inseguimenti per la città con le mini che hanno appena fatto un colpo e cercano di scappare. Per ogni data un singolo film? Sì, però in 3 casi faremo vedere anche dei cortometraggi. Ci tengo a dire che in occasione della seconda settimana, quando faremo vedere uno dei film più recenti, Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio, un autore interessantissimo del nostro cinema, visto che è un film che parla di tante questioni del presente rispetto alla vecchiaia, all'immigrazione, eccetera, abbiamo deciso di aprire in quell'occasione facendo vedere l'ultimo film di Armando Cesta, Movimento, che parla proprio del tema dei migranti e del dramma continuo che esiste ancora oggi, pensando per esempio alla nave Ocean Viking bloccata nel Mediterraneo. Per parlare di temi un pochettino più leggeri e molto belli, sempre in quella settimana, venerdì 17 luglio, ci sarà una serata dedicata al mondo delle arti. Vi faremo vedere un cortometraggio che si chiama Looking for Bees, che ha fatto una giovane autrice piemontese che si chiama Azzurra Fragale, che ha chiesto alla comunità di, come dire, di apicoltori, di amici, di filmmaker, di filmare il ritorno delle api in città durante il periodo di chiusura di tutte le attività. Ed è molto bello, se ne parla spesso, di come la natura e il mondo animale si riappropri del, come dire, degli spazi urbani. In quell'occasione ci sarà anche un intervento da parte della comunità degli impollinatori metropolitani Presidio Slow Food. Per chiudere, per quanto riguarda, come dire, i cortometraggi delle parti, come dire, più indipendenti, ci sarà un 27 luglio, quando faremo vedere un altro film che parla di viaggi e di migrazione, un film straordinario che si chiama Qualcosa di Meraviglioso. Verrà fatto un piccolo omaggio a Corrado Iannelli, che è stato un autore che ha raccontato molto le periferie e in particolare anche le nuove generazioni dei nuovi cittadini attraverso una pillola di African Time. Silent Movie, quindi immagino con le cuffie. Esatto, questo per non disturbare i vicini. L'ingresso sarà da via Brandizzo 65, che è l'ingresso classico del Cineteatro Monterosa, ma poi si accederà nei grossi spazi interni dell'Oratorio Michele Rua, una figura molto importante per la città dei santi sociali, non solo la città del cinema, che è Torino, perché è stato il primo, diciamo, successore di Don Bosco. E in questo ampio spazio, con la distanza, col distanziamento fisico, verranno consegnate all'ingresso e sanificate ogni volta le cuffie wifi. Questo perché dobbiamo ringraziare gli amici dell'associazione Baretti, che da alcuni anni, e continueranno anche quest'anno, partono proprio il giorno dopo di noi, il 7 luglio, in San Salvario hanno questa pratica molto bella che evita l'inquinamento acustico nei confronti dei vicini. In quest'anno c'è, col problema Covid, ovviamente, come dire, i copricuffia e tutta la struttura della cuffia verranno sanificati ogni volta per ovviamente evitare al massimo, per essere il più rispettosi possibile delle norme anti-Covid. In chiusura, per la programmazione ci dai tutti i riferimenti web? Il programma è visibile, consultabile sia sul sito dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, www.annc.it, Ancona, Milano, Napoli, Como.it, o sul Teatro Monterosa, che è www.teatromonterosa.it. Dal sito del Monterosa è anche possibile acquistare già in questo momento i biglietti per tutta la rassegna. E poi ci sono i canali social, Facebook, Instagram di entrambe le realtà, dove aggiorniamo continuamente le notizie, gli ospiti. Un dettaglio secondo me importante, che forse è un po' unico di tutte le arene, è che in caso di brutto tempo comunque la proiezione avverrà lo stesso all'interno del cinema, che tiene 400 posti, quindi è possibile ospitare 100 persone nel rispetto del distanziamento fisico. Un'estate al cinema, Barriera è casa mia, 18 serate di cinema per 21 film in versione silent movie a Torino, Arena Cineteatro Monterosa, dal 6 luglio al 12 agosto 2020. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Vittorio Sclaverani. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Viva il lupo, a presto, ciao ciao. Con Matteo Pavesi della Fondazione Cineteca Italiana per parlare del Cinemobile Summer Tour 2020 dall'8 luglio al 31 agosto a Milano e dintorni. Matteo, ben trovato. Grazie di questo invito e ben ritrovati. Ci racconti di questa iniziativa? Nasce appunto in un contesto in cui fare cinema in sala si può, ma invitando parenti e amici, perché le possibilità, il distanziamento eccetera eccetera sono molto stringenti, per cui l'idea della Cineteca è quella di utilizzare questo cinemobile storico del 1936, perfettamente restaurato e dotato di un videoproiettore laser, e girare e portare il cinema agli spettatori, un po' sotto casa, nei loro cortili, nelle loro strade, per magari far ritornare a loro, insomma, la voglia poi di ritornare con una nuova stagione al cinema. Quello che noi proponiamo nelle diverse serate non è un film in particolare, ma è una sorta di storia del cinema in 50 minuti costruita con materiali d'archivio, con i materiali del nostro archivio, e in circa 50 minuti raccogliamo oltre 100 sequenze che in un viaggio molto molto spericolato vanno dall'arrivo del treno dei Lumière fino un po' ai giorni nostri. Ci sono di mezzo capolavori, ma anche pubblicità, spot, materiali frammentari, eterogenei, ma di grandissimo interesse storico e mi auguro anche di divertimento visivo. Ogni sera cambieremo un pochettino il menù, puntando ora sulla commedia, ora un po' più sul cinema muto, ora sulla città di Milano o sulla musica, eccetera eccetera, per divertire, ma anche un po' per divertirci in questa scorribanda con il cinemobile in giro per la città. Quando e come era partito tutto? Per portare alle persone un po' di conforto. Diverse persone oggi hanno ancora molti timori di andare in una sala cinema, in un teatro chiuso, per cui bisogna un po' vincere, riaprirsi un po' alle cose con le adeguate attenzioni e sicurezze, e per cui insomma da qui il primo pensiero. Poi c'è oggettivamente un problema anche di scarsità di prodotto cinematografico, per cui anche l'ipotesi che avevamo fatto di un'apertura di un'arena estiva ci convinceva fino a un certo punto, proprio perché non avremmo avuto magari una rosa sufficiente di titoli e la cosa non ci interessava di tanto. Per cui l'idea di invece inventare un format nuovo, fare un po' come gli ambulanti dell'inizio del secolo, insomma, girare con uno schermo, un cinemino che noi montiamo in pochi minuti, ci sembrava un'idea simpatica e poi che ci consente di raggiungere anche luoghi minati dal Covid e che possono in questa occasione trovare un momento di socialità e di divertimento un po' alternativo alla TV o allo stare in casa, insomma. Più o meno quanti saranno i luoghi che attraverserete? Sono diversi, attualmente sono circa 15 luoghi, però poi in un luogo che è il Lido di Milano, che è un posto meraviglioso degli anni 20, oggi un po' dimenticato, una parte del Lido che è un'area molto grande, anche chiusa al pubblico, lì con un'associazione faremo più puntate col cinemobile proprio per provare a riattivare una zona della città un po' addormentata, diciamo così. Per cui le serate sono oltre 30, i luoghi sono un po' meno, però insomma tra i 15 e i 20 e le 20 location. Poi se ne stanno aggiungendo molti in questo periodo, per cui contiamo di proseguire con questa iniziativa almeno fino alla metà di settembre. Ci lasci tutti i riferimenti web per le informazioni? Cineteca Milano, lì c'è la news, e poi se si entra nello streaming di Cineteca si vede un po' le prossime tappe, e poi di ogni serata rilasceremo delle clip di che cosa abbiamo visto e magari qualche testimonianza anche degli spettatori che si sono divertiti o meno, e via, faremo un piccolo storytelling di questa avventura con il cinemobile. Cinemobile Summer Tour 2020 dall'8 luglio al 31 agosto a Milano e dintorni. Un saluto e un ringraziamento a Matteo Pavesi della Fondazione Cineteca Italiana. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Ok, grazie. Ciao a tutti. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.